Cacciatori di terre. La corsa ai terreni fertili del sud del mondo. In inglese si dice land grabbing, letteralmente accaparramento di terre, e consiste nell'acquisto o affitto di intere porzioni di territori di stati africani, asiatici e sudamericani da parte di altri stati o investitori privati. Un fenomeno che negli ultimi anni ha visto una crescita impetuosa, destando non poche preoccupazioni. Ne parliamo con Henk Obenk, agronomo olandese che lavora presso Grain, un'organizzazione non governativa impegnata sul fronte della sovranità alimentare ed in difesa delle agricolture locali. Nosotros nos damos cuenta de la gravedad del problema del land grabbing. Ci siamo resi conto della gravità del problema del land grabbing a partire dal 2008. Vedemmo che c'erano dei paesi, più che altro del Golfo Persico, che stavano comprando terra in Africa. Però quando abbiamo approfondito i nostri studi, realizzammo che oltre ai governi che puntano ad assicurarsi la sicurezza alimentare, il motore di questo processo è l'industria finanziaria, le banche e i fondi di investimento, che sono sempre più attivi nell'investire in terra. Questo è uno scenario relativamente nuovo, perché dopo la crisi alimentare del 2007, quando sono saliti molto i prezzi, e dopo la crisi finanziaria del 2008, quando le banche cercarono nuove strategie per investire in campi più sicuri, decisero che la terra, comprarla o affittarla, è un buon investimento. Nel 2008, con il crack dei subprime e la crisi finanziaria, enormi quantità di capitali si sono spostati verso investimenti più sicuri. La terra è diventata un asset finanziario su cui istituti di credito, agenzie specializzate e speculatori hanno iniziato a giocare a rialzo e a ribasso. Insieme a loro ci sono però anche i governi di diversi stati, interessati ai terreni dei paesi in via di sviluppo con obiettivi più concreti. Cina, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, ma anche Libia e Svezia. Nella classifica dei più attivi compratori di terra figurano sia i paesi emergenti che gli stati industrializzati, e le esigenze sono spesso diverse. La Cina, ad esempio, ha bisogno di produrre alimenti per sostenere l'impetuosa crescita economica e demografica, ed anche a fronte del fatto che nel paese sempre più terre vengono dedicate agli allevamenti. Per i paesi del Golfo invece si tratta spesso di una scelta strategica, quella di risparmiare le esigue riserve d'acqua attingendo da altrove. C'è poi chi, al posto di coltivare generi alimentari, si è buttato sul business dei biocombustibili. Per tutti l'obiettivo è comunque quello di trovare grandi appezzamenti di terre fertili a prezzi abbordabili e leggi permissive in materia di investimenti esteri. Ma quali sono le dimensioni del fenomeno? Roberto Sensi lavora per MAIS, un'organizzazione non governativa che svolge attività di informazione e contrasto intorno al tema del land grabbing, e spiega come non esistano statistiche ufficiali, ma solo stime, comunque preoccupanti. Si hanno stime a ribasso, diciamo, stime per difetto di quelli che sono i reali volumi di acquisto. Per esempio, in Africa sono stati affittati o comprati circa 20 milioni di ettari, e una estensione pari a quella dell'Olanda è attualmente destinata alla produzione di biocarburanti. Per fare un altro esempio, dal punto di vista, diciamo, dei volumi di investimento, un'impresa tedesca che si chiama EcoPower, quindi investe su energia alternativa, energia sostenibile, sta investendo 77 milioni di dollari nell'impresa di stato etiope Orioma per l'acquisto di 13.000 ettari per la produzione sempre di biofuel. L'organizzazione MAIS fa parte di Creating Coherence, un consorzio di organizzazioni non governative europee che si sono messe in rete con l'obiettivo di informare e aprire spazi di riflessione sul commercio e le politiche di sviluppo promosse in particolare dall'Unione Europea. La caccia alle terre, sottolinea MAIS, è un autentico business. Nei prossimi anni si prevede una continua crescita dei prezzi delle derrate agricole sui mercati internazionali. L'acquisto e l'affitto di terre promette perciò grandi guadagni a chi investe. Le offerte del resto non mancano, almeno fino ad ora. Il Sudan, tanto per fare un esempio, ha ceduto alla Corea del Sud 700.000 ettari di terra, la Tanzania 500.000 all'Arabia Saudita, la Repubblica Democratica del Congo più di 8 milioni di ettari al Sudafrica. In alcuni tra gli stati compratori la ricerca di terre su cui investire è delegata ad appositi uffici. È il caso del Qatar, dove a selezionare le migliori offerte di terra all'estero è il Programma Nazionale per la Sicurezza Alimentare. Lo stato del Qatar, come si legge sul sito dell'organismo, ha una scarsa disponibilità di terra e di acqua e questo limita la crescita dell'agricoltura. Per ovviare al problema, il Programma per la Sicurezza Alimentare del Qatar promuove accordi soprattutto con gli stati africani. Nel marzo del 2008 il Qatar si è ad esempio interessato a 40.000 ettari di terra sul delta del fiume Tana, in Kenya, e ha avviato le trattative con il governo di Nairobi per l'affitto in leasing. Questo tipo di investimenti, sottolinea il Food Security Program del Qatar, non serve solo ai compratori, ma anche agli stati che cedono il proprio terreno. Semplicemente se non ci saranno investimenti in questi paesi soffriranno di scarsità delle derrate alimentari. Fadel Tiah lavora al Qatar National Food Security Program e in un'intervista rilasciata durante il vertice FAO del novembre 2009 a Roma spiega che la loro attività non è finalizzata a rubare terre ma a collaborare con le comunità locali. Noi non stiamo cercando in alcun modo di sottrargli cibo, nei fatti stiamo cercando di sostenerli attraverso la cooperazione e la partnership per aiutarli a nutrire loro stessi ed entrare in affari con altri, ad esempio fornendo il Qatar e altri paesi di tutto il mondo. E questo non è un furto di terre come qualcuno potrebbe pensare, si tratta piuttosto di una collaborazione con paesi come il Qatar che hanno problemi nella produzione di cibo a causa del clima e della scarsità d'acqua. Ma portar via la terra alla gente, portar via il cibo alla gente, non è il motivo per cui noi stiamo lì. Tutto dipende dall'approccio, di chi stiamo parlando, di quale compagnia. Noi in Qatar abbiamo un approccio che prevede di collaborare con i contadini e le comunità locali. Di fatto non ci sarebbe possibile lavorare senza di loro. Trattare con i paesi ad un alto livello istituzionale o federale non funziona sempre. Per sostenere la nostra attività nel lungo periodo dobbiamo lavorare con i contadini locali. In cambio dei 40.000 ettari nel delta del Tana, il Qatar si è offerto di modernizzare il porto di Lamu e accrescere così l'attrattiva turistica dell'intera regione. Un investimento, assicurano, che creerà 30.000 posti di lavoro. Non tutti però sono d'accordo sul vantaggio di questa operazione. Secondo Maulidi Duayu, contadino ed attivista del delta del Tana, cedere la terra al Qatar non ha senso perché i contadini kenyoti si trasformerebbero in braccianti al soldo di investitori stranieri perdendo il diritto di decidere. Quando producono, i contadini producono innanzitutto per loro stessi, spiega Duayu in un'intervista a Voice of America. Sia che coltivino per l'autosussistenza, sia che coltivino per esportare, i contadini si impegnano a sfruttare al meglio la loro terra, sottolinea. Ma questo non accade se diventano dei semplici braccianti. Soprattutto quando l'entità degli investimenti è elevata, le opinioni di contadini, allevatori o comunità locali vengono rapidamente messe da parte. Accade ad esempio in Etiopia, uno dei paesi che più sta scommettendo sul business dell'accaparramento, attraverso la vendita o l'affitto di decine di migliaia di ettari. Ecco cosa ha raccontato ad un reporter della BBC, un abitante della regione di Gambella, regione del sud-est dell'Etiopia dove hanno investito imprese cinesi, indiane e saudite. There are a lot of human rights abuses. You cannot speak freely. Le violazioni sono all'ordine del giorno, non si può nemmeno parlare liberamente della terra. Se parli vieni sbattuto in prigione. Qualcuno è stato anche ucciso a causa di questo. People have been killed because of the land acquisitions. Sono state uccise persone perché hanno denunciato quanto accadeva sulle loro terre, chiede il giornalista Ed Butler. I think more than 10 sì, people... nell'ultimo anno e mezzo credo che almeno 10 persone sono state uccise per questo e molte altre sono finite in carcere. Per far spazio alle imprese agricole estere, racconta l'intervistato, che ha preferito rimanere anonimo, interi villaggi sono stati sgomberati e sono state requisite terre prima dedicate al pascolo, all'agricoltura o semplicemente alla raccolta di frutti. Nella regione di Gambella, spiega invece il reportage della BBC, la terra viene affittata a $10 per ettaro l'anno. Una condizione ottimale per la Saudi Star Corporation, una delle imprese che hanno investito e che in cambio hanno promesso la costruzione di cliniche, scuole e una rete elettrica per la zona. Drunk and lying outside on the lawn. Dave the Min Man. Look up at the blood stars as the dew on the grass soaked through the back of his jacket and the back of his trousers, and then he'd look towards the moon. La perdita di sovranità della terra non è un rischio che corrono però solo i contadini del delta del Tana o della regione di Gambella, ma, come spiega Roberto Sensi di Mais, un problema intrinseco alla pratica del land grabbing. Una volta che tu cedi il controllo dei tuoi territori, su quei territori non hai più il diritto. Non è più il diritto magari di pensare di destinarli a un utilizzo piuttosto che un altro, di renderli produttivi o semplicemente anche salvaguardarli. Quindi non hai più il controllo su quel territorio. Il controllo del territorio è fondamentale per l'attuazione delle politiche di sviluppo. C'è una questione anche, a mio avviso, di giustizia economica, di equità delle relazioni internazionali, perché attualmente gli investimenti esteri internazionali sono realizzati dando all'investitore enormi diritti e riducendo enormemente lo spazio politico, la sovranità che ha invece il paese ospite, cioè chi accoglie l'investimento rispetto all'investitore. Il Qatar, così come l'Arabia Saudita, la Cina o la Svezia, parlano di investimenti. Lo sviluppo di un paese è tuttavia una questione complessa e non riconducibile alla semplice immissione di denaro in un sistema economico. Se questo denaro viene immesso senza tener conto degli equilibri sociali e produttivi del contesto, può produrre più danni che altro. Se poi in cambio di queste risorse economiche il paese ospitante cede il diritto a decidere della propria terra, gli effetti possono essere disastrosi, anche dal punto di vista ambientale. Una volta acquistata la terra, gli investitori stranieri puntano spesso a produzioni intensive, finendo per sfruttare al massimo i terreni e le risorse idriche disponibili. Ancora Roberto Sensi. Una produzione per esportazione, vuoi per agrocarburanti, eccetera, è una produzione ovviamente non sostenibile, realizzata su grande scala, intensiva, e quindi lascia un impatto, lascia delle conseguenze ambientali su quel territorio, che poi sono, come dire, quelle che pagano la popolazione e il paese ospite. Secondo stime della FAO, per soddisfare il crescente fabbisogno alimentare del pianeta, la produzione agricola dovrebbe crescere del 70% nei prossimi decenni. Per sfamare l'intera popolazione mondiale nel 2050 sarebbero necessari, in altre parole, 209 miliardi di dollari in investimenti. Ma di che tipo di investimenti in agricoltura stiamo parlando? Ci risponde Sofia Monsalve, che fa parte dell'organizzazione non governativa FIAN e mantiene i contatti con le organizzazioni contadine dei paesi in via di sviluppo. Per le organizzazioni contadine, soprattutto in Africa, sembra che ci sia uno spazio di manovra per i governi per rifiutare questo tipo di investimenti. Queste organizzazioni non sono contro gli investimenti, quello che vogliono discutere è che tipo di investimenti. Uno dei principi che pongono come imprescindibile è che la terra non si vende, la terra non si consegna, deve restare nelle mani delle comunità locali, dei contadini e delle contadine. Però esistono molte altre maniere di investire. Si sta facendo passare l'acquisto delle terre come l'unico modo di investire e questo non è corretto, non è vero. Ci sono molti altri modi di investire in agricoltura che non siano comprare terra o affittarla per 30, 50 o 90 anni. Se gli investitori vogliono fare dell'agricoltura un affare super redditizio, allora è possibile che i modelli di investimento che servano allo sviluppo dell'agricoltura contadina non corrispondano alle prospettive di lucro alla quale mirano. Noi crediamo che una delle condizioni perché una politica di investimenti privati abbia esito è che debba esserci una politica pubblica di sostegno all'agricoltura, perché è questo che dà ai contadini la libertà di scegliere, di decidere se gli conviene o meno entrare in affari con qualche investitore privato che gli fa delle proposte. Stiamo parlando di attori privati economicamente molto potenti, che altrimenti sono nella posizione di dettare semplicemente le condizioni dell'affare. Che possibilità ha di sottrarsi un contadino davanti a questo tipo di investitori privati? Frente a un gran inversionista privato. Per non essere sopraffatti dagli investitori stranieri, i contadini locali hanno bisogno di un sostegno pubblico, a cominciare dalla tutela dei propri diritti. Uno dei nodi in questo senso è l'accesso alla terra. A parlarcene è Antonio Onorati, dell'organizzazione non governativa Crocevia. L'accesso alla terra è un diritto che deve essere garantito a chi però? Quindi i primi che hanno diritto ad accedere alla terra sono i produttori di cibo. E quindi per regolare l'accesso alla terra occorre regolare la capacità dei produttori di cibo di accedere alla terra, controllarla e organizzare in modo sovrano la produzione. I produttori di cibo sono i contadini, sono gli allevatori, sono i popoli indigeni, sono i pescatori della pesca artigianale nelle acque interne. Quindi è evidente che bisogna regolare questi diritti e eventualmente un modo di accedere alla terra e anche l'acquisto in proprietà. Abbiamo già visto che l'accesso attraverso il mercato della terra produce disastri, il caso più famoso è quello del Kenya, ha portato il paese sull'orlo della guerra civile, c'è stato un processo di accaparramento di terre dovuto alla messa in vendita di terre a fini agricoli o ad altro fine, e queste terre sono state accaparrate dalle elite interne, non c'è stato bisogno per provocare il disastro che venissero gli hedge fund ad investire. Quindi una volta regolato l'accesso, occorre regolare la cessione di proprietà di terre a stranieri, a fondi di investimento, e quindi questa è materia che tocca la sovranità dei paesi, è materia che tocca diritti dei popoli, diritti delle popolazioni, e che non c'ha niente a che vedere con gli investimenti, cioè una forma di acquisto di un bene da parte di un'entità a fini speculativi. Kane malungelo mulavanzi kuyini matota mulavanzi kuyini masumbuka ta makaya karata nyikane malungelo mulavanzi kuyini matota mulavanzi kuyini masumbuka ta makaya karata zikoma ile chinzi za mahila zo kama bolo zihangu nusela nzisusa zofana Zikoma hile chinzi za mahila zoka makolo Zihangu nusela nzisusa zofana Zauti sa oh oh Iyi angela, yikwi angela Zauti sa oh oh Iyi angela, yikwi angela Oltre a scegliere terre fertili, gli investitori stranieri cercano paesi in cui le norme sulla proprietà fondiaria siano più aperte e favorevoli. Non è un caso se in Africa, dove spesso manca una tutela sui diritti ancestrali delle comunità locali, negli ultimi 3 anni sono stati affittati o comprati oltre 20 milioni di ettari. Ngikani malungelo mulavanzi kuyini matuta mulavanzi kuyini masunguka kemaka ya karata. Cedendo i diritti fondiari, i paesi in via di sviluppo non perdono però solo terre, ma anche la possibilità di definire strategie agricole o, in altre parole, di decidere cosa e come coltivare. Dal punto di vista della sicurezza alimentare, una strategia chiave è far sì che la maggior parte della produzione che viene realizzata a livello locale finisca nelle pance delle persone che abitano quelle comunità e non finisca, ad esempio, dal Sudan alle pance dei cinesi. Se, come ricorda Roberto Sensi, la sicurezza alimentare si inizia a garantire destinando i prodotti alle comunità locali, la caccia alle terre fertili va nella direzione opposta. Una volta acquisiti i terreni fertili, gli investitori stranieri puntano infatti all'esportazione in base alle indicazioni del mercato internazionale o alle esigenze dei propri paesi d'origine. I cereali sudanesi finiscono in Cina, il riso cambogiano sugli scaffali del Qatar, la colza brasiliana nei motori statunitensi e l'annoso problema della fame nel mondo non fa che aggravarsi, nonostante i proclami e gli impegni della comunità internazionale. Un fenomeno che ha finito per allarmare la stessa FAO, con il segretario Jacques Diouf che ha apertamente parlato di rischio neocoloniale. È proprio la comunità internazionale e in particolare alcuni attori come la Banca Mondiale ad aver creato però le condizioni perché la terra potesse essere più facilmente venduta. Ce ne parla Anuradha Mittal, direttore esecutivo dell'Auckland Institute, centro di ricerche statunitense che si occupa di temi legati allo sviluppo sociale ed economico. In alcuni casi possiamo constatare che il gruppo Banca Mondiale è attivamente coinvolto nei finanziamenti, fornendo garanzie per questi investimenti attraverso MEGA, che sarebbe l'agenzia per le garanzie sugli investimenti multilaterali. Ma il loro ruolo inizia prima di questo, semplificando, creando strumenti o promuovendo leggi che consentano agli outsiders di acquisire sempre più terre in quei paesi. Dopodiché forniscono assicurazioni per quegli investitori che potrebbero essere preoccupati dei rischi politici in quei paesi o della possibile imposizione di nuove regole e restrizioni su importazioni e esportazioni o che succeda quel che è avvenuto in Madagascar, dove gli accordi commerciali sono decaduti con la caduta del regime. È interessante osservare come il gruppo Banca Mondiale fornisca assicurazioni per questo genere di problemi politici, mentre dovrebbe fornire programmi che, stando allo statuto, dovrebbero avere lo scopo di alleviare la povertà nei paesi del terzo mondo. Concedendo i propri prestiti solo ai paesi che avessero effettuato riforme strutturali, la Banca Mondiale ha promosso la liberalizzazione anche in un settore chiave come quello delle terre. Ma il ruolo dell'istituto nel favorire la caccia alle terre fertili non si esaurisce qui. Roberto Sensi di Mais segnala un'altra profonda ambiguità. Durante la crisi alimentare, in qualche modo, tutti questi attori hanno cominciato a dire: bisogna investire di più in agricoltura, bisogna aumentare i capitali investiti in agricoltura e soprattutto la principale fonte di questi capitali deve essere il settore privato, quindi bisogna rendere dinamico e redditizio conveniente questo settore agricolo. Allora cosa è successo? È successo che molte agenzie si sono messe a lavorare per promuovere gli investimenti e siccome la Banca Mondiale ha una tradizione storica con agenzie dedicate come l'IFC, ad esempio l'International Finance Corporation, che è il ramo della Banca Mondiale che resta al settore privato, la Banca Mondiale si è messa in qualche modo un po' a fare da capofila in questo processo di spinta degli investimenti privati. È ambiguo perché in realtà la Banca Mondiale da un lato si promuove come arbitro delle relazioni, diciamo nella definizione ad esempio delle linee guida per fare investimenti più sostenibili, più socialmente sostenibili, ecologicamente, bla bla. Il rischio è sempre quello, attraverso questi processi, diciamo, di definizione di linee guida, di legittimare delle politiche che invece magari andrebbero assolutamente fermate e condannate. Però dall'altro lato la Banca Mondiale, siccome è una banca, investe anche sui mercati finanziari ed è, come dire, investe su questi grandi fondi di investimento che poi vanno a investire su terra. Quindi in realtà, come dire, da un lato la banca specula, fa soldi sulla questione del land grabbing, e dall'altro lato invece si promuove un po' come arbitro. L'International Finance Corporation è il ramo della Banca Mondiale che si occupa di prestare denaro ai privati. Ed è attraverso questo ramo che nel 2009 la Banca Mondiale ha stretto un accordo con il fondo di investimento privato Altima Partners, versando 625 milioni di dollari da destinare ad operazioni finanziarie su terra e agricoltura. Una cifra considerevole, soprattutto se si pensa che, mentre investe, la Banca Mondiale continua a proporsi come soggetto super partes. È in qualità di arbitro che, ad esempio, nel 2008, la Banca Mondiale si appellò ad un nuovo patto sulla politica globale del cibo, un accordo per garantire allo stesso tempo gli investitori e i paesi che ospitano l'investimento. Sempre nei panni di arbitro, la banca è stata in passato uno dei principali promotori delle cosiddette linee guida, principi etici sugli investimenti cui le imprese avrebbero dovuto aderire su base volontaria. A raccontarlo è Sofia Monsalve dell'organizzazione non governativa FIAN. La Banca Mondiale, in uno sforzo per legittimare un po' questo accaparramento di terra su grande scale, propose una serie di principi di investimenti agricoli responsabili, così come li chiamarono loro stessi. Noi ci opponemmo con forza a questi principi perché ci sembrò solo un'operazione di relazioni pubbliche, un nascondere dietro una cortina di fumo le conseguenze tanto gravi che questa situazione sta a significare. Tutto questo fu discusso presso il Comitato di Sicurezza Alimentare Mondiale. Noi contestammo il processo dal punto di vista formale, istituzionale, nel senso di chi ha stabilito ed emesso i principi, e dal punto di vista del contenuto, perché è uno strumento del tutto volontario, con nessun riferimento per esempio ai trattati internazionali dei diritti umani. Quindi per queste e per molte altre ragioni ci opponemmo all'applicazione di questi principi, ottenendo che il Comitato per la Sicurezza Alimentare non li appoggiasse. Non appoggiara questi principi. Dopo aver evidenziato l'ambiguità della politica promossa dalla Banca Mondiale, le organizzazioni, i contadini e le ONG si sono messe al lavoro per stilare una bozza di regolamento internazionale sull'accesso alla terra, ancorato alla tutela dei diritti umani. L'ambizione è che il codice diventi vincolante per i paesi ONU e per le istituzioni di Bretton Woods, ovvero Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale. Le trattative all'interno delle Nazioni Unite sono iniziate lo scorso ottobre e il documento dovrebbe essere votato a ottobre del 2011 dal Comitato per la Sicurezza Alimentare della FAO. Al di là dei negoziati, sia in Asia che in America Latina ed in Africa cresce l'opposizione ai processi di accaparramento delle terre da parte dei più diretti interessati, vale a dire contadini, pastori e popolazioni indigene. È il caso del Mali, come racconta Antonio Onorati, ma anche dei Masai in Kenya. In Mali c'è stata una grossissima mobilitazione rispetto all'acquisizione delle terre da parte di Gheddafi ed altri. Per il momento le cose vanno, no? Alternativamente, nel senso che c'è un periodo in cui questa cosa si ferma, un periodo in cui avanza, però l'ondata repressiva è molto forte e si abbatte sul sindacato contadino. Il positivo è stato che, siccome insieme ai libici c'erano pure un po' dei maliani che si erano messi a comprare la terra, questi si sono calmati perché, sai, tra maliani se la vedono diversamente. Ci sono paesi dove processi sono stati bloccati. Sono stati disdetti i contratti d'acquisto, sono stati disdetti, per esempio, le acquisizioni proprio su large scale di acquisto diventano un fenomeno meno importante da un punto di vista numerico. C'è più contract farming, c'è più contrattazione per lunghi o medi periodi, insomma, quindi diciamo che la resistenza ha prodotto comunque un raffreddamento del fenomeno. Particolare, quelli che hanno dato battaglia su queste cose sono stati i Masai, e in Kenya hanno portato a casa una legge, un cambio costituzionale sull'accesso alla terra e una legge su land law, una legge sulla terra in cui per la prima volta vengono riconosciuti i pastori come aventi diritto, e le terre da pascolo vengono considerate terre senza nessuno. Dagli stati africani, cioè i rangeland, vengono considerate terre senza nessuno. Quindi per esempio i Masai in Kenya, dove sono andati sull'orlo della guerra civile, hanno ottenuto che la Costituzione ci avesse il problema della terra all'interno. Il 4 agosto del 2010 la nuova Costituzione del Kenya è stata sottoposta al referendum e approvata con il 67% dei voti. Il nuovo testo dedica 8 articoli alla questione della terra e prevede l'istituzione di una Commissione Nazionale per la Terra con il compito di far rispettare i diritti delle comunità locali e indagare sugli attuali abusi o su quelli commessi in passato. Una vittoria importante che dà ragione alle lotte condotte da decenni dalle comunità locali e che dovrà ora essere applicata attraverso l'adozione di specifiche leggi e programmi di governo. In Kenya, come nel resto dei paesi africani, nei paesi in via di sviluppo, così come nei paesi industrializzati, a fianco all'elaborazione di principi e vincoli sulla gestione della terra, servono politiche e strategie coerenti. A cominciare dagli investimenti pubblici che a livello globale, come ricorda Roberto Sensi di Maiz, sono progressivamente calati negli ultimi decenni. Nessuno dice non servono investimenti agricoli, perché in realtà gli investimenti agricoli servono. Storicamente il settore agricolo è stato, come dire, la cenerentola anche dell'aiuto pubblico allo sviluppo. Nella fine degli anni 70 era il 17% dell'aiuto pubblico ed è arrivato nel 2000-2005 a circa il 3%. E lo stesso discorso vale anche per gli investimenti privati, nel senso che l'agricoltura, il settore agricolo, è sempre stato considerato comunque un settore molto, molto difficile da gestire. Quindi il mercato è in grado di investire per la riduzione della fame, della malnutrizione, per migliorare le infrastrutture agricole per i piccoli contadini, perché ricordo che l'agricoltura nel mondo ancora è un'agricoltura su piccola scala. Il business agricolo, il business della terra, è un business per creare denaro, per fare profitto, e quindi ovviamente si pone in contraddizione con quello che sono gli interessi pubblici e il bene comune. Cacciatori di Terre è uno speciale radiofonico realizzato con il sostegno e la partecipazione dell'organizzazione non governativa MAIS, nell'ambito del progetto Creating Coherence, promosso insieme alle organizzazioni Fair Watch di Genova, Xarxa de Consum Solidari di Barcellona, Botens di Amsterdam, Zemiata di Sofia e Protect the Future di Budapest.